Radio Onda Rossa, 87.900 MHz nella modulazione di frequenza. Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, la voce libera, libera la voce. Radio Onda Rossa, Radio Onda Rossa. Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza inizia prove tecniche di trasmissione. Il consueto appuntamento del mercoledì sera che va in onda da adesso a circa sino a circa le 22.30. Il contatto telefonico è 06 49 17 50, il sito internet www.ondarossa.info anche per usufruire del nostro streaming. Per quanto riguarda le comunicazioni mediante posta elettronica, ondarossa@ondarossa.info, mentre questa trasmissione andrà domani con il podcast e con il playlist sulla pagina Facebook prove tecniche di trasmissione /disorder. Saluto tutti quelli in questo momento connessi invece con la pagina di DJ Elettrodo, ossia Alessandra da Roma, Like Awake qui da Roma, come da Roma Sandra, e Pistoia Simona, Raffaele da Napoli, Enrico Cerrato da Asti, Enrico Carrino credo da Battipaglia, e gli altri poi li diremo pian pianino. Il palinsesto prevede intorno, come ho già detto, le 22.30, 25 clock, che andrà a concludere questo mercoledì 3 maggio del 2017. Parking brake is on. Andiamo ad iniziare come abbiamo fatto la scorsa settimana, andando un po' a visitare questa preziosissima compilation di Gerstein del buon Maurizio Pustianaz, dall'eloquente titolo 32 Years of Rain, 32 anni di pioggia, 32 anni di ottima carriera per Maurizio Pustianaz, ricordo, un musicista piemontese che ha assemblato in questo compendio, diciamo, la parte forse più importante della sua carriera. E mentre lo salutiamo, già che è all'ascolto il buon Maurizio, noi ci andiamo ad ascoltare queste tre tracce, ossia Take the Hold, una traccia del 1993, In the Shadow of the Sun del 94 e del 95 invece, anzi del 96, ci ascolteremo Black Flag. per momenti emozionalmente diversi riguardanti Gerstein, progetto di Maurizio Pustianaz. Intanto si sono aggiunti altri personaggi, il buon Emiliano Pietrini, che è Seutiano alias Globo Oscuro, che manderemo più avanti. Un saluto anche ad Alexia qui da Roma. E di nuovo Enrico Carrino da Battipaglia, connesso con ondarossa.info cliccando su in diretta. Un saluto anche a Stefano of Lawrence, sempre di Torino. Tornando a Gerstein, dunque, tre passaggi. Take That Hold da Sucker, un album della Misty Circles del 1993, poi In the Shadow of the Sun, estratto da Karakiri from Seven Strings, un mini album. E infine questa Black Flag da un CD del 96, St. Anthony's Fire. La prima traccia dagli umori crepuscolari, quasi alla Tuxedo Moon, e le altre due tracce invece più un po' sospese tra rock evoluto e noise. Dunque andiamo avanti e arriviamo qui a Roma. Loro si chiamano Divus, una delle novità più interessanti della Boring Machine, un'etichetta di Treviso che terremo costantemente sotto controllo. E i Divus sono formati da Luciano Lamanna, una icona dell'elettronica, e il sax degli Zoo, Luca Mai. E quindi un ottimo biglietto di presentazione da questo punto di vista. Divus si dipana in quattro tracce. E questa sera ci ascoltiamo la seconda e la terza, intitolate rispettivamente a 2 e a 3. Thank you. Dunque, interessante uscita riguardante i Divus di Luciano Lamanna, manipolatore proprio qui di Roma, unito alla sapienza artistica del sassofonista Luca Mai, noto soprattutto per le sue gesta con gli Zoo. L'album di esordio, appunto, di Divus, che esce per questa etichetta trevigiana, la Boring Machine. E di jazz ce n'è, jazz malato. Intanto si va a salutare anche Valentina qui da Roma, qui la platea si sta pian pianino arricchendo. Risaluto dalla Calabria ancora Mariolino Stancati. Quindi Divus che lasciamo. E come le scorse settimane, ultimamente c'è molto materiale, molti artisti provenienti dalla penisola, dalla nostra penisola, ma di tanto in tanto ovviamente ce ne andiamo al di là. È il caso della Scandinavia che andiamo a visitare attraverso Peter Andersson. Lo conosciamo più che altro attraverso i Rise on Day 3, la sua dimensione più dark ambient. Questa si chiama Necrophorus, che non è in fondo molto distante da quelle sonorità. Forse qui è ancora più cupo il messaggio, la struttura musicale di Necrophorus. Questo è un vecchio lavoro del 96 dal nome Underneath the Spiritual Tranquility, in realtà formato da due album ancora più vecchi, due cassette. Lo stesso Spirit of Tranquility, The Impressions of Salvador Dalí, dedicata al maestro. Questa sera ci andiamo ad ascoltare la lunga traccia che va a chiudere The Spirit of Tranquility, ossia Within Tranquility. Thank you. Vecchia Volpe, Peter Anderson, questa volta come Necroforus, uno dei personaggi più noti, appunto, della scena dark ambient scandinava. In una delle sue numerose facce e progetti e idee, peraltro qui unisce così questo retrogusto gotico con invece delle contaminazioni, direi, space ambient, che ci fanno ricordare anche Atom in Electrin, un altro suo progetto più votato per l'appunto verso quest'ultima tendenza. Intanto vorrei anche menzionare la Nesplay Sounds, questo gruppo di appassionati e di ascoltatori e di supporto di questi spazi musicali, che ci porta inevitabilmente a salutare anche il buon Raffaele Pezzella. Nei giorni scorsi è venuto a mancare purtroppo Mika Vainio, fondatore di un pezzo di storia della scena elettronica che porta il nome di Pansonic, anche loro scandinavi, esattamente dalla Finlandia. Il tutto era insieme a Ilpo Väisänen. E quindi ci sembra doveroso, soprattutto in questo spazio, andare a ricordare proprio la figura di Mika Vainio e dei suoi Pansonic. Proprio nell'album che segnò il cambio di nome, ricordo ancora una volta che inizialmente si chiamavano Panasonic, poi andarono, diciamo, in contenzioso con l'omonima multinazionale e furono costretti a togliere la A dal nome, trascinandola in questo lavoro chiamato appunto A, in una sottile operazione ironica, se vogliamo. E quindi da questo A ci andiamo ad ascoltare tre tracce per Pansonic: Yoto 2, Telakoe e Sarmais. Abbiamo dunque voluto omaggiare Mika Vainio, scomparso qualche giorno fa a soli 53 anni, fondatore insieme ad Ilpo Väisänen dei grandissimi Pansonic, un vero e proprio pezzo di storia della scena elettronica industriale degli ultimi anni. Lo abbiamo fatto attraverso A, questo terzo lavoro del 1999. Da recuperare anche ovviamente il suo progetto, credo si dica FI, che era il progetto proprio soltanto di Mika Vainio. Salutiamo anche la Grazia Obligua, anche lui scopro amante dei Pansonic, che ci fa piacere. E dunque Mika Vainio, anche lui ci ha lasciati, lasciandoci una sterminata mole di album, sia come Pansonic che sia appunto come progetto suo singolo. Per tornare invece alle nostre cose, si avvicina il 40° anno dell'esistenza di Radio Onda Rossa e quindi si stanno allestendo numerose iniziative. Una per esempio si tiene questa sera a 100 celle aperte, centro sociale dunque, in via della Rasede, organizzato il Dito nella Presa, uno spazio proprio di cui Radio Onda Rossa, dove si parla dei falsi miti della sicurezza in rete. Ci sarà anche una cena e un buffet vegan a sottoscrizione libera, il tutto per Radio Onda Rossa. Altra iniziativa è quella che ci riguarda leggermente più da vicino, e sarà il concerto delle Winter Severity Index il 19 maggio in quel del Forte Prenestino, e a seguire una selezione elettro-gothic industrial del sottoscritto, di DJ Noctibus Pannis, Mitt Geisen, Giardino Violetto e dell'amico Skillahar. Ci sarà poi un brindisi sotto la radio il 24 maggio con concerti, banchetti eccetera, fino al culmine della festa vera e propria il 16 e il 17 giugno alla SNIA. E di questo si parlerà anche nei prossimi giorni. Allora, si va avanti. Abbiamo nominato la Nesplay Sounds, Raffaele Pezzella, e quindi andiamo un po' a conoscere meglio questa compilation dal nome Belgian Experimental Underground 17 Survey, una analisi approfondita della scena belga.